sono anch'io, perché avrei fatto tutto da casa qua, capito? C'erano cioè, i bianchini, un attore eccetera, quando l'hanno rimesso a posto. E mi ha detto che per la cucina e per il bagno, per questione appunto di condensa, ci vuole tempo, altrimenti ti si sfogliano le sfide al muro. Dimmi tu. Ma se ascolti Antonio in BMR, puoi fare un passaggio? Spento. Chi è Antonio? Antonio Riserva. Boh, non so. Riprendi, ma chi è fai girare? Dai, già sono qua io intanto. Avanti, sto. Cosa ce l'ho? Ho preso un paio di gine e poi ci andiamo a fare merendero, no? E infatti, io avevo già avvisato che tra 5 minuti chiudevo. Andare, hai capito Gianni come la studia? Bisogna far così, bisogna fare. Solo tempera devi usare tra cucina e bagni. Perché il muro deve respirare in cucina, quando cucini e tutto quanto. Ma Gianni deve lasciare che asserrato, ma chi? Se no, se non respira, ricompresa la bomboletta di ossigeno, ce la usa un chilo, e ve la dai. Pure che se è vero, bisogna fare così, bisogna fare. Noi te già Gianni, cosa ha detto? Col coronavirus bisogna andare piano. No, bisogna farlo respirare un muro. Bisogna respirare, ma sono un po' di umidità, è proprio da sopra. Abbiamo chiamato a Gianni ed è per essere caduto. Magari non ho chiamato il telefono Gianni. Quando lo chiamo al telefono non ha il tempo di avvisare, ma già lo so, più o meno è così. Va bene, e io se devo fare a me, c'è l'otto, sono già le 8, adesso ce ne andiamo a pappare, piano piano, una bella insalatina, stanotte c'ho capocollo qua, c'ho con due piedi che non mangio garri, stanotte me lo mangio veramente una bella bisteccona. E poi ci guardiamo un po' di TV e poi saremo a nuda, e lo rifanno, a dormire lo rifanno. Ehi, Claudio, ero più a me ad ascoltare la voce. A dormire lo rifanno, per quello che dormo, io trovo 2 ore e poi lo trovo più, 2 ore, a qualsiasi ora mi metto a dormire, 2 ore e poi arrivo a terra, lo trovo più. È una vecchiaia è qua. Va bene, dai, io ne approfitto, perché sono le 8, ma sono quelle che ne sono. Bene, Claudio, ciao, salutissimi, grazie di essere stato a fare quattro chiacchiere, e alla prossima ci attendiamo ancora. Ciao, Tore, buona giornata per te, saluta la signora. A domani, se consiglio, salutiamo anche quelli che sono in ascolto. Martizio, chiude, ascolta il finalino, venga, vai, Claudio. Aspetta, faccio salutare da Gianni che era, si è allontanato, vai già. Ehi, ciao Marchisio, ci sentiamo, dai, ha fatto piacere sentirti. Era più a me ascoltando a te, a Pino Riserva e a così, a Luca. Sono andato a Cesare più a me, 5 minuti. Gianni, ciao. Ciao Bacchì, tante belle cose, un piacere ascoltarti, non ti preoccupare, non lo posso già, io vengo anche qua. Avanti, per i saluti a Bacchisio. Ok, ciao Bacchì, ci risentiamo alle prossime, ok. Buona cena e tutto. Io ne approfitto che mi sociamente pure a me. Ci risentiamo alle prossime, se coincide domani. Va benissimo, ok, ciao a tutti e due, ciao Gianni e ciao Claudio, statemi bene, buona cena e tutto quanto, e ciao agli ascoltoni anche, ok. Ciao Tore, ciao, buona cena, ci sentiamo, buona carica quando la fai, avanti Claudio. Ciao Tore, alle prossime, ragazzi, coincide domani, un saluto circolare, buona cena. Sì, ho visto che Antonio arriva fortissimo, quasi fondo scala arriva, anche Luca era quando ha messo l'antenna. Ha fatto quel lavoro, arriva anche lui quasi a fondo scala, da casa della mamma, da giù arriva 4-5, arriva benino, invece Antonio adesso la casa sua, arriva quasi a fondo scala, e va bene, e sono buona quella antenna, ce l'ho anch'io, io ho tolto quella grande, ho messo quella X50, e va benissimo. Ma è grande come te. Ma un 427 me lo date? La mazza del Nervari, allora sì. A casa? Hai messo l'antenna anche lì allora? l'antenna cosa pongo? L'antenna di uno e se la l'antenna non la pongo. Sì, sono 12 anni. E c'ho una boomerang me. Sto facendo una boomerang adesso? Sì, una boomerang di quelle grandi, però sul tetto, Allora, quanto vogliamo quella boomerang? Se tutti noi vinti arrivi, diciamo, che c'è la boomerang. Tanto male ce la mettiamo anche noi. Sì, quella della Lem, quella da Fusano l'hai presa. Quella della Lem è buonissima la boomerang. È molto buona. Anche Antonio ce l'aveva, adesso l'ha data a Luca. No, fanno molto bene quelle antenne, ce l'ha l'Ubrofetta, esce benissimo a tutte le parti, e ho fatto girare io a Fusano. Adesso non so se lo dobbiamo piazzare sul tetto domenica, mi ha detto niente Luca, si è preso tutto, lo dobbiamo montare sul tetto quello di Luca, sicuramente arriva fortissimo, perché arriva già a 9.15 con nel poggioro, tu sei 9 più 20, quanti anni metti arrivando al tuo? L'antenna va bene perché è accordatissima, poi l'ho modificata e mi ha tagliato un pezzettino e l'ho accordata anche nei nostri canali. L'unica cosa è che è di costruzione esile, però io sono uscito da Bricome, ho preso dei tubi in alluminio vuoti e praticamente ci ho messo uno dentro l'altro e l'ho rinforzata. Questo è la mia geniale, no, che male va benissimo, e qua c'è 9 più 20, altro. Fai 9 più 9. Vabbè, vai già, vai. Già va bene con l'antenna. Adesso bisogna vedere lontananza, proprio la lontananza, ma tu hai anche la zona buona Anturi. Hai anche una buona zona. Già va bene, sei in alto. Vabbè, non è che tu sei in basso. E io sono in un fosso, Anturi. Se tu guardi, sono dentro un fosso. Non so, però tu almeno il mare lo vedi, io invece da casa mia ho il palazzo da parte, però il radiale l'ho puntato dalla parte di Claudio. Ah, ecco perché... Lo volevi sparare. Cazzo, cosa hai fatto? Mi hai puntato il radiale sopra. Il radiale l'ho puntato verso la tua zona, perché comunque io da qui ho i palazzi più alti che mi circondano, quindi non, il mare non riesco a vederlo. Vedo uno spiraglio, forse non so, non so per la niente, ma la parte più aperta che ho è per sopra la tua. 9 più 30 qua sì, tu. 9 più 30. E sto usando un multimode 2 col microfono originale, mi stanno usando 2-3 fatte questo affare, un apparecchietto vecchio, l'ho provato così, adesso posso provarlo perché ha ancora il piede che non è saldato, curate un po'. No, 9 più 30 già vai bene, dai, non c'è nessun problema. Mamma mi ci buttano sempre lo stacco da 60 io. No, claro, guarda, te lo faccio comprare, ti porto un video, è un multimode 2. Col microfono, sono la Fayette, per tutta che ho trovato in cantina, perché il microfono suo originale non sono riuscito a beccarlo. Va bene, 9.20 qua, Gianni ce l'hai, sei più vicino, vedi, ti ha dato 9.30. Va bene, va bene. E ieri ero lo stesso qua, no, nel canale 10, e mi ha chiamato Daniel, c'era Retro Break, c'ero io, Giulio, Francesco di Cosio, di Osio. Ho sentito sto break a Santiago 5, però non avevo capito, era lui, un paio di volte, poi l'ho fatto entrare, pensavo che era qualcuno in macchina, invece era Daniel, dove sta? Daniel dove sta? Arriva a Santiago 5, io arrivo a 7, liscio così, quando tiro un po' più di gas arrivo anche a 9. Allucinante, Vita Zona è micidiale, micidiale, una cosa allucinante. Mi ha chiamato anche uno l'altro giorno. Ora dei motori di Cosio, ancora più lontano di Oristano, Santa Giusta si è messo più lontano, dopo Oristano, Santa Giusta. E mi ha detto che mi ha sentito nel canale 10, Santiago 4. Cazzo, boh. Mi sta tagliando il pozzo d'antenna, io devo spostare la manta, vado a dove adesso devo mettere dove c'era il sistema. Che quello è, sono quattro elementi da 2 metri e li tiro tutti su perché sono a 2 pollici il piantone, quindi ho voglia a mantenere l'antenna, c'erano le direttive sopra, figurati, e le metto 3 bicon sotto la molla e 3 bicon al centro con i tornichetti, faccio un capolavoro. Una società fissa anche lì, tanto ormai non vende più antenne che davano fastidio. Io prima l'avevo tolta anche da lì, da dove adesso, perché quando girava la direttiva toccava, capito? Gianni, a proposito di poco fa, ti potevo rispondere, io ho comprato in via Montello da Gianni 20 metri di cartone. quindi a rotolo, capito? Per imballare le antenne, le ho già spedite, vendute tutto. E quelli la comprano, mi sta dicendo Luca che la comprano gli bianchini per imbiancare, se non vuoi sporcare il lenzuolo a lavarlo, metti quello, capito? No, claro, sono lenzuola vecchi, non è che siano lenzuola nuove. Lenzuola che io ho tolto e l'ho comprate nuove, del metro matrimoniale, che magari sono un po' lisse, capito? E ne metto quello lì, oramai c'ho già tutto l'ambaradà. Tanto è solo un pezzo che devo fare, non è. Se mi capita la faccio tutta già che ci sono, ma dovrei farne solo un pezzettino e basta. Buonasera a tutti, Brecco! E mi Antonio, mi avanti Antonio, sempre all'ora di zonchi arrivi tu. sì, quando travagliamo il burudino arrivi all'ora di zonchi. È normale. E mia va, devo fare a giotto mia, preparare la pasta al forno per domani. Non ti tratti male, no Antonio? Beh, i nocchi. Ehi, stavo scherzando, anch'io già lo sai che quando lavoravo anch'io entravo tardi, ma ce ne stavamo tutti andando. Ehi, vabbè, dai, adesso ci tratteniamo un altro pochino, dai. Gaffa, buonasera Claudio. E buonasera a tutti gli altri anche, che non so chi c'è. Ciao Anto, no, io mi ho portato già il cane, quindi sono libero, magari già ne deve portarli, sino alle 8:30. C'è Antonio Riserva, vai Anto. Sì, ciao Antonio, ben ascoltato. Buonasera a te Antonio Riserva. Oh, cla, comunque poi l'ho presa me con la cianfrusaglia che ti avevo detto. Cappa, vai, continuate che io farò io a preparare la bagna e tutti quanti i gozzi. Dal limite ci sentiamo dopo, se... Ehi, vai tranquillo, Antu. Ragù fai. Cappa, ehi, uno che è rimattinata, un sughetto, da poi tutto un altro condimento. Oh, tocca chi tocca. Vai, cuoco. Se la cava Antonio in cucina, ieri ha fatto la carbonara, buona. Vai Antonio, prepara, vai. Cappa, cappa, ehi Antonio, sì, presa, va bene. Come io lo sto facendo agli anni, 10 euro rotolo a 20 metri, ma mi è avanzato un sacco. Però siccome ci sono anche altre direttive da imballare, da mandare via, e quindi lo tengo, ma se te ne servi completo non c'erano problemi. Fatto un imballo alla grande, molto facile da fare, perché li unisci tutti gli elementi, capito, li avvolgi, perché ci vuole un bel nastro e quello da bel imballo, due rotoli ne ho consumato, perché poi devi tutto imballarlo bene. Ho spedito lunedì con Luca, Flipper, lunedì Continente, e fuori dalle balle, adesso mi è rimasta solo la 5 elementi, che penso che... a breve parte anche quella. No, ti ringrazio, ma siccome risulta sopra i pesci della cucina, lì viene male a mettere il cartone, si avvolge di più il lenzuolo, capito? Lo copre meglio il lenzuolo, non è in terra che lo devo mettere sopra i cosi, ma la cucina componibile, dai, sopra i pesci. Quindi mi va meglio del cartone, va lenzuolo. Scusa, allora appena il cielo fa quello morbido che vendono, per l'altro, continuo molto, lo metti, quindi la metti la pentola. E vabbè, ma il lenzuolo lo posso fare lo stesso, non è che sono lenzuola vicia, tu, non è che sono lenzuola che io uso, sono lenzuola che dovevo riciclare per qualche cosa, non andava male buttare perché sì, erano già usate, ma non erano così vecchie da buttare via, capito? Si potevano utilizzare, io faccio gli stracci da queste cose, io gli stracci poi quando ti servono li prendi, li piego tutti quanti, quando mi servono per asciugarmi le mani, magari che uso roba oleosa, roba tipo CRC, roba così, mi pulisco con quelli. Sì, anch'io, la lenzuola che dico a mia moglie, non buttarne mai, se me le faccio a strisce, me le porto in campagna, sai, la motosega la devi smontare, fare, pulire le mani, porta un via, più rapido ne prendi un altro. Sì, così faccio io la stessa cosa, bisogna riciclare tutto adesso. Voi riciclate, io faccio un po' a traccia a mia moglie, quindi lo pieghi come niente, come nylon, tu capisci, serve proprio per imballare, per girare, lo fa a rotoli, no? Io ho preso il rotolo, ho messo in terra, ho messo l'antenna sopra e poi l'ho tutto arrotolato, proprio è fine. Usano i cosi, quelli che verniciano, lo usano, mi stava dicendo quello di via Montello, capito? Sì, già, lo conosco, è quello ondulato, quello io l'ho comprato questa estate prima del Covid, dopo il Covid, quando ho intonacato a fino una stanza a mio fratello, ci sto mettendo le robe di cane di soffre. Lo metti nel cielo, fa fare anche il cane, invece lì nel cartone come cade, il cartone l'asciuga l'acqua e si asciuga tutto, spieghi, capi tu. Sì, ma quegli anni stanno andando, ma infatti c'erano i rotoli da 10 e i rotoli da 20, quelli da 10 erano tutti finiti. E mi ha dato il rotolo da 20, siccome ci conosciamo abbastanza, ma il rotolo da 20 scontato praticamente quasi come quello, 10 euro già, 12 euro mi ha fatto fare il rotolo da 20, e mi ha fatto un bel... Mi serve per le antenne, per imballare le antenne, per imballare, capito? Anche la radio per imballare, fatta bene. Va bene, va bene. E dopo tu mi dici se ti va bene la radio, se è bella la radio, è che ho dato due retocchi alla 44. No, è bella, bella. La tua solita radio, è che ripeto, io con un baracchino. Sei tu. No, beh, tengo il Mickey Gain molto più basso, prima lo tenevo 1,5, 1,7, adesso ce l'ho 1, capito? Perché mi sono accorto che in posizione NC lo strumento era, non saliva neanche a metà. Allora gli ho dato appena appena, adesso l'ho fatto al 60%, diciamo, beh. Al 60%, parlando sul parlato, non arriva neanche a metà, se invece si fischia supera la metà, è arrivato proprio appena a mezzo giro, perché altrimenti poi spinge troppo in modo laterale, capito? Avanti Gianni. Io se dalle 8:30 mi trattengo, poi vado, perché stamattina l'ho portato, ma ho dovuto fare in fretta per portarlo tutto di fronte al portone di casa, perché stavo aspettando un pacco e da ieri che mi dovevo arrivare, poi hanno messo in consegna oggi, quindi lo dovevo tentare, se no, e poi invece venne giù tu da al regalo tutta la mattina, cavolo, a casa, e poi se sapevo che veniva così tardi me ne sarei anche uscito. Ma corriere conviene sempre dare il numero di telefono, io quando devo ricevere qualcosa dico chiamatemi e avvisatemi, e mi avvisano, capito? Come è successo già, ero da lì nella piazzetta dei Carbonati alla Cobra, che mi ha telefonato, mettersi a casa, perché se li mi conoscono tutti, mettersi a casa, caro, e poi sono qua nella piazzetta dei Carbonati. Se voi mi aspetti, se no mi sono consegna proprio lì, già fuori lì, sto arrivando, aspettami lì, me l'ha consegnato intanto le macchine, era un pacchetto, e me l'ha consegnato lì nella piazzetta dei Carbonati, capito? Però mi chiamano sempre, la verità. Ia, va bene che va bene, sì, c'è un segnalone veramente, va con tutte e tre le radio, ho commutato anche col 140, sì, 920, col 430, 920, col 440, 920. Veramente un bel segnale, vai, riprendi. Lo sai che io ho venduto l'altro giorno tre radio, tre CD, tre apparecchi, con tre radio, un gancio, un altro è un simone 3, era un'esercizio di rana, un ragazzo di Milano, un amico suo di Babiloni, si chiamava un baracchino, e gli ho dato un Alan 78, mi sbaglio, c'è cosa mi ha dato in cambio? Un 140 con i finali bruciati. E per te è un gioco, cazzo, il cambio finale. No, io ho fatto un cambio, ho dato l'820H, e mi hanno dato in cambio un 140 immacolato, figurati, mi avevo manco il decimale, mai toccato, proprio tutto chiuso, e me lo sono fatto io, la verità, mi ho messo l'ultimo decimale, gli ho girato il trimmerino dello slider e poi gli ho dato appena ma un pelino di un po' più di radio, come il infatti li ho lasciati uguali, 80 watt, moderate sono più che sufficienti, va bene, perché ne ha 80 moderate in AM in FM e un centinaio in banda laterale. Sono radio che quelle non vanno tirate più di tanto, vai. Però esce molto molto bene, è nuova. Lì ho fatto un cambio, poi ne ho due in vendita, che se ne sta occupando Luca. C'ho il 756 della ICOM in vendita e il 780 della Kenwood. Perché di HF ne ho due e di VU base ne ho altre due, quindi cosa ne vai? Per tenerli ferme, me li sto facendo i soldi e decido con quello che ho accumulato se prendere qualche altra cosa unica oppure se non prendere più niente. Devo vedere, perché intanto attività non le sto più facendo, quindi alla fine è roba. E butti via i quattrini, capito? Se voglio fare altro già ne ho del radio, quindi non c'è problema. Vai Gianni. Vabbè, ma i soldi finiscono in fretta, però io so sempre del parere che la cosa ti rimane, poi se te la prendi ti rimane, se la vuoi cambiare la cambi, se la vuoi vendere poi la vedi, però intanto c'hai l'oggetto, i soldi ti volano, credimi, perché anche io ho veduto roba che mi sono fatto un bel po' di quattrini e mi sono volato. Io invece vediamo solo, sì, vediamo, ma cosa faccio? Io di HF ne ho tre, ne sto vendendo uno che è quello più praticamente più vecchio di tutti, ma il più nuovo di tutti. Ok, quindi sto vendendo quello. Il 780 della Kenwood, che è il bibanda base a 220, è sempre spento perché ho i due gemellini della ICOM. Cosa faccio? Cosa vado a comprare? Cosa mi compareggio? Un HF, 3.000 kg. Un altro, cosa compro già? Non so cosa comprare, capito? Non vedo radio, ne ho anche troppe, ma parecchie, quindi è chiaro che alla fin fine per tenere le spente le dai, però ti ripeto, non so, può darsi pure che prenda un HF di ultima generazione, anche se quella che ho non è che sia così vecchia. Però devo decidere, perché è inutile tenerla lì, accendere ogni tanto, fare due chiacchiere e poi cosa fai? Bah, non so, vedere un po', posso investirlo in qualche altra cosa, non lo so, devo decidere la verità. Vai Anto. Sì, no, anch'io a Claudio, so come se è stato deciso che va bene, lo so che poi magari io mi vado per sentire lì, che mani, quindi, in altre cose, però la come l'attrezzatura che ho comprato per l'altro, mi sto cercando di andare l'altro, perché non posso fare tutto quanto, la scatola della io. Però quando lo penso, non mai altro che c'è, non posso affrontare un macchinato. A me la devi dare. Ma chi non era finito, guarda, a te non tiro proprio niente. Buonasera, però a me che ora uso, tu sei mandrone. Ma tu sei pure più vecchio di me, se non la giocano io, tu vuoi? Ciao a te, buonasera, ben ascoltato. Il parere è sempre quello, compri, metti lì, come abbiamo fatto tutti e come facciamo tutti, però alla fine quando c'hai 3 HF ne usi uno, gli altri poi devi stare a accendere, a fare, e quello ne V1 aggiù 4, base, alla fine due li dai, quelli più vecchi, quelli che hai comprato da prima li dai e ciccia, la radio già non me ne manca, però ti ripeto, o li investi in un'altra cosa o compri un'altra radio di ultima generazione, ma sarà molto difficile, antenne già non mi compareggio, cambia due ragioni una tira fuori. Vabbè Tino, c'è anche Gianni, vai. Ciao Gianni, anche a te, ciao Antone, ciao Claudio e l'eventuale ascoltone, dai. No, tanto ha tenuto così per farmi dare qualche cosa ad Antonio, ma non mi dà mai niente, vabbè. Sono sul PC. Ciao Antonio, ma ciao Tino. Anto, poi l'hai buscata quella brugola che ci voleva e quell'antenna? Ma che? Quel pezzo di quella burchia d'ottone? No, non l'ho mai buscata, non la trovi da nessuna parte, non te ne dà nessuno. Casino, bisognerebbe trovare un'antenna vecchia di quelle lì che ci abbia... purtroppo... io ce l'avevo dentro, io non so come ho fatto a perderla, quando te l'ho data, ce l'avevo in mano e c'era perché io prima di scendere l'ho vista, l'ho persa giù, sicuramente sarà lì ancora, però vai e trovala in mezzo all'erba perché ho portato il cane, mi ha tirato nell'erba, poi bisogna vedere dove cavolo mi è caduto. Dimmi. Ma qual è quella che va dentro dove tu abiti in bastoncino da sera. Quella borchetta, dottore, quella cosa tonda che poi c'ha il farino tagliato in quattro, che impicca nella pelle civile, che si impicca dentro. Sì, ebbene non li ci ha fatto. Ci ho provato, però dopo un po' come vai a stringere se ne vai a galera, perché quello è ottone, devi trovare un pezzo di ottone dormito. Se avessi avuto il sogno l'avrei fatto 50 miglia. Guarda che ci sono pacchette da piccole ottone, la sirene, forate. Sì, ma non trovi il piattello poi, come glielo metti, come glielo assalti la rondella tonda al sotto, all'ottone. Cioè devi trovare un'altra rondella all'ottone e devi avere lo scia cilindrico per saldarlo. Ah sì, perché c'è il coso e poi c'è il rondellone per non far entrare dentro, io ho capito, Giugavigo, una rotta del balle, quando perdi queste piccole cosettine, cazzo ti incasini, vabbè. Cosa vendi Tino al computer? Mandando un curriculum, dai, a una ditta Socialini. Ma cosa ti sta succedendo alla radio? Tino, fece nuova. Affuso. Sicuramente la batteria del microfono scarica. E il microfono quello. Avete un microfono quello. A futidini. Ma tu sei meglio, c'è tutto che l'ho alternata. Ma sempre con l'alternata sono io, non è possibile, cazzo. Aiuto. Ma tutto alternata sì. Ma mi hai tolto la parola di bocca. Dice no, non è adesso. Cazzo diavolo. Aspetta. Aspetta, che voglio sentire a Tino. Non è microfono, c'è radio, altro che il microfono. È Santiago 5 qua, Tino. No, Santiago 5 sei qua, tutte scariche. Cazzo, da me 9:10. Ma qua è 9:3, era 9:25, Santiago 5. Voi siete vicini. Noi siamo vicini, io sono al monte, mi grazie. Santiago 8, 7, non so cosa sta succedendo. Controllo il commutatore delle antenne, sì. E non usate il commutatore delle antenne, e quindi vanno a fanculo e mi fanno uscire col cavo. No, ma anche io voglio uscire dal gimbal, dove ho fatto 2:30, non ne uso di quella cagata. Ma neanche lui ne usa, vai tranquillo, già c'è roba seria. C'è qualcosa che non va nella radio, blu. Riprendi già entra Tino, vai. No, a me arrivano quei 25 tiro, di solito mi arrivo anche più forte. Magari c'è qualche componente in perdita, qualcosa del genere. Non so. Sì, ritentina, va. Lascia perdere, io guarda ora. Ora, 1, 2, 3. Aspetta, Tino, cos'è? Sì. Un corretto che trovo l'antenna, che a furia di girare, fare, insomma, non sono andato bene. E ora Claudio. I 9:20 sei sempre, adesso sì, non lo fai di Santiago 7, 8. Non ho capito cos'è. Non è questione di né di commutatori né di cose. Il corretto che bene a male, quando sposto la radio, siccome adesso ho la radio a, con la scrivania a 90 gradi, no? Poi quando finisco di modulare la metto allineata alla scrivania con un carrellino che ho, quindi e non lo spostare sicuramente ho fatto quello, ora non è niente, dai. Meglio così, Antonello. Antonello è entrato, tutto alternato, io cambio questo alimentatore, Antonello, un pazzo di gomma, vai Antonello. Un altro passaggio poi io vi lascio e vado a portare che c'ho fame, riprendi Antonello. Sì, non mi ascolti, sì. Ha voglia, adesso sei 9:10, quasi 9:15, cosa hai combinato? Te l'ho detto, non ho messa. Adesso sei Santiago 9 però, i picchi di modulazione fa oltre, quando parli normale sono fabbri. Lo so, è normale, adesso ho una cianfrusaglia, poi ci sentiremo in occasioni migliori. No, già va bene anche così. Non sono immaginato. Te l'ho ripetuto l'antenna. Sì, 9:95, dai. Santo mi arriva qua, 9:20. E vabbè, ma è molto più alto di me, molto più vicino di me, cosa vuoi? Cioè, io voglio capire, le prove che facciamo dalla mia parte contro quelli che ci sono in città sono da non considerare. Sono di me, sono una vita di gente, io. Cosa no? Attenzione proprio a me, che sono quello che promotore di queste cose, che tutti sono forti, uno mi tira l'altro, poi tra loro fuori non lo senti, che discorsi sono? Io lo so, appunto sto dicendo, mi arriva a me 9:20, l'ho detto a poco fa, perché siamo vicini a lui davvero, grazie a grazie merenda, glielo dico che lo vengo. Sì, poi vabbè, se si mette un... Io sono qua, comunque. Precisamente, arriva molto aspetto di me. Ma non trovate bene tutti, non c'è problema, tu sei 9:20 lo stesso. Ma tanto mai, cambiato l'elemento. Ho cambiato la baracchina, la verità. Sono stato l'altro, già lo sai. Sì, però tu dici la patata alla bocca, ciao Antonio. Ehi, ciao. Dopo la patata alla bocca, non c'è problema per quello. Comunque sia, sto usando l'altro apparato, quello che non uso quasi mai, la verità. Comunque sia, sono due da tutti, da. vabbè, là, è il tuo modo di parlare. Ciao, poi, ciao. Dai ragazzi, io vi saluto, che è pronto la cena. Ciao Tino, ciao Gianni, ciao, sono 8:30, se devi portare atteso. Ciao Antonello, ciao Antonio. Un saluto a tutti, a domani, vai a tu. Ehi, ciao Cla, buon proseguimento, buona passeggiata, buona cena, buon tutto. Vai Gianni. Ciao, ciao Claudio, dai, sto andando via anche io, vi saluto tutti cordialmente. Ciao Tino, ciao Antonio, tutti gli ascoltoni, ciao anche a Claudio, ciao a tutti. Quello è più per me, dai, devo portare il cane. Grazie Claudio che me l'hai ricordato. Ciao, ciao a tutti, vi saluto pure io che vi sto ascoltando dal piano di giù, ok? Ciao, vi saluto a tutti. Dai, continuate voi che io so preparare della bagna. E la pesciamella. Ciao a tutti, ciao, buon venerdì, dai. Ci sentiamo. Claudio, ciao Gianni, che devi portare il cane anche tu. Ma tutti il pelo lungo avete. No, Claudio l'ha già portato il cane, Claudio è da mania. Va bene, ciao ciao. Riprendi anche tu. Io sono sempre in un angolo perché c'ho il campo che praticamente l'ho fatto entrare in cantina, solo che per trovare adesso l'ho portato su il conto e non posso usare anche lo baracchino, ma va a rivelare di fan. Male, non penso il cavo? No, mio figlio, l'ho fatto l'altro giorno lì, l'ho fatto a rato, siccome c'era l'impresa che ha cambiato la grondaia e i fusiali. Prima è venuta a farmi ferrare, dopo abbiamo fatto la grondaglia, adesso mi ho profittato, poi tutto per dopo, ho bucato il tetto, ho messo un palo, un capo, un gatto, adesso chiedo, ma chi non mi ricordo, ho chiesto per l'antenna, non ho preparato tutto quanto così, non ho fatto più nulla. Lo sto provando adesso con il piede senza saltare. Non ci vai a manifestare tu. Ma che cosa faccio? Un ristorante. Cosa c'è? Sono quelli che stanno manifestando. Ma non si da fuori, a me non mi dà tenuto da nessuno. Io non mangiano, se non mi ripeto chi è da travagliare, non mi dà tenuto da nessuno a chi mi dice che sono a carico di mia moglie. C'è anche lì non nazionale. Andare. Se voglio io glielo canto dalla finestra di qui. Frate d'Italia, l'Italia è in festa. Sì, in festa la mela. Comunque hai sentito Nanni che vuole chiudere? No, non l'ho sentito perché se mi continuo a guardare la televisione mi hanno i Covid. No, io ho visto una bisaglia da sera, ho visto così, stavo lavorando, poi sono fermato, ma chiaro, c'è ancora. Neanche la doccia. Ho visto una pista di abuso e sono aumentati e ci dà quello che ho detto che se sono aumentati gli altri chiuso, sicuramente lunedì ci sarà un black recap, è tutto fatta, ahimè. Ma non lo so, vabbè, non, se chiude vuol dire che dovremmo fare un po' di provviste, ma per un po' ci chiudono i negozi elementari. No, no, gli alimentari non li chiude, lascia aperti gli alimentari, i mercati, le farmacie, solo adesso un po' chiuso, altro terzo, alle 18, chiuso a raso, cioè si esce solo per fare la spesa, non ci saranno più punti di aggregazione, né palestre, né cerimonie, neanche funerali, e voleva chiudere il cimitero, voleva chiudere tutto il cimitero, fare in campagna. No, io devo essere sincero, non sono un po' senza andarci, perché nonna, nonno, zia e quant'altro, sono un po' senza andare. No, vabbè, io vado spesso, almeno una volta al mese vado, quando c'era il periodo del Covid, compleanno, sono bloccato, però Prova, abbi pazienza. Sì, ti sento, aspetta. Abbi pazienza? Ehi, abbi pazienza un attimino. Cazzo, che devo mettere i cannocchiali. Vabbè, dimmi, allora. Devo mettere i cannocchiali. Prova. Non mi senti? Mi sei scappato, dove sei andato? Aspetta, sono a impostare. Aspetta un attimino. Cazzo, lo zero. Oh, guarda, da quando sto diventando cieco, cazzo. Più un cacchio. Aspetta. Lo so, io in questi ultimi mesi sto lavorando sempre in alto, mi metti solo sulle palle, no, no, come non ho fatto la vita, volevo fare più progressivi, correggo. Poi manico da 200 euro adesso, poi magari tra un anno passi da 1,5 a 2, si risulta resistenza. Ci sono quei fascetti da Lecce. Sì, lo so. Guarda, adesso ti sto chiamando col portatilino, non so se mi senti. Guarda, 1, 2, 3. No, niente. Non ci arrivo allora. Non ci arrivo, però se scoppio già mi senti. Va bene. Così è. Però devi metterti un microfono ampio, perché diciamo la verità che a volte, vabbè, se ti avvicini bene al microfono io ti sento bene, ma... Ehi, vabbè, lo sai cos'è? Questo è un portatilino, un VAT sta uscendo. E allora anche troppo, un po'. Io ce l'ho, ho comprato delle scariche. Ho delle scariche per via del carretto di camuffazione. No, gli stavo dicendo un VAT in PMR, no, 27. Ah, e allora anche troppo. No, il 27 sto usando il ultimo dei due, sarà saranno, ora sarà, ce lo sapete per fare. 6 watt modulati. Ma modulati non fischiati. No, fischiati, modulati non ci arriva a 6. Ah, 5 watt, se fischio arriva a 6, dopo che lo allora, basso. Ho messo così volante per provare, ho detto. Al basso, ho capo. Sì, già lo passi, ma quanti fate provando tu? guarda qua, no, era mio figlio che sta facendo vedere il codo di arlo, Che ne vuole passare? Ma non me ne fate la vergogna? Ti passo io, sai, mi passa. Già, ho capito. Mi passa di 9.20 quasi, Antonio, non 9.20, 9.15. E Antonello è 9.10, però se tu parli a voce bassa hai Santiago 9, te l'ho appena detto. E lo so, ti, c'è un microfonino della Lafayette, che ha bisogno di una fama con la capsula, dentro. Adesso infatti quando hai detto lo so, che fa tutto con la banana, vedi una bella radio forte 5, se no sei radio 3, avanti, giusto per accontentarti. Sì, adesso in settimana metto mano al 140, cerco un po' di sistemare questi finali e dopo già te lo porto a vedere. Lui, a come? Sistema, sistema. Una volta che sai che il 140 c'è lo slider, io lo regolo a 80 avanti, gli metto la 2830 e lo blocco. Fai così, vai già. Guarda che il mio questo qua non arriva a 100, questo esagerando modulati fa 70-80 watt, ma vanno bene, poi c'è, se vuoi fare un uomo c'è l'altro. No, vabbè, io ho preso questo 140, l'ho dato, me l'hanno dato in cambio di un CX450 della Midland. Quelli vecchi, quelle apparecchie, mi ha dato questo, mi ha detto guarda, dice l'apparecchio riceve, apparecchio trasmette, accende, si illumina la spia ma non so di potenza, nulla, cioè te lo do così, se lo vuoi, io ho detto vabbè dammelo, tanto vedi che su CX450 non me la putia nulla. Bene, vabbè. Bene ragazzi, io vi mollo che devo accendere il forno, perché sennò qua non si mangia, non si batte il ciglio. No, io finisce vado a farmi la doccia, che se no stanotte mi tocca con cambio il capo inseminato. Va bene dai, ciao Tim, buona serata, ciao Antonello, buona serata, e io chiudo tutto e vado e faccio la doccia, ciao, un abbraccio, ciao anche Antonio che sta facendo il ragù. D'accordo, ciao a tutti. Buona tosa, buona. Alla prossima e ciao. Bene, dai. Ciao Antonio, ciao Franco, ciao Antonello, ciao Bombolino, ciao Claudio se sei ancora in ascolto. Non penso che Gianni sia entrato a casa, comunque. Ritenetevi tutti salutati. Franco. Buongiorno a tutti, vai, anche da parte mia. Non trovo che ci sia perché ho appena acceso. Ogni tanto fate sentire anche tu, scusa. Sono rientrato adesso. E sono salito su a prendere le cose, ho provato a accendere e ho sentito un voi. Bene, vai, sennò qua non si batte chiodo. Capo, perché si può si esce Tino. Poi vuol dire rimanere a casa. Antonio, a Franco già lo ascolti, sì. Io ve lo ascolto, buonasera Franco. Cappa, ciao Antonio, buonasera, ben ascoltato. Cappa, dove è venuto lì là? Sorso. È la voce che ti ascolto. In occhi già arrivi abbastanza forte. Cappa, dai, io sono impegnato sulle faccende di cucina adesso. Ok, dai, continuate, mi ha fatto piacere, mi sento abbastanza bene, non ho problemi. Cappa, dai, continuate. Cappa, tu. Ci ho messo... Ho comprato il satellite, ci ho messo l'antenna su, ci ho messo, è per quello. Tu fai, a riserva, lo senti, sì. Antonio, riserva, certo. Sì, ci sono, mi senti, Fra? Ah, ecco, sì. Segnale di 2-3. Radio 4. Ah, Zero. Passo. Normalizzato sono. Cappa. Ti provo che fai, Antonio. Ti provo che fai, lo passo. Auguro che lo baci. Tu sei senti in onga, due, tre. A posto. Tutto a posto, non ti preoccupare. Ti ha già passato Antonio di Riserva, mi dispiace, ma qui si fanno le cose. Io mi ascolto. E Barraldo. Tanto è. Sai che stai giocando di spalle qua, no? Beh certo. Lui non ha capito quello, non ha capito Tino. Perché loro fanno le prove tutti quanti vicino, con Claudio, hai capito? E quindi vabbè, io so di arrivare a 9:20, ma c'è qualcuno che è attaccato a Claudio e lui vuole arrivare più forte di me. Facciamo una prova al di là di Claudio. Mi sembra un po' difficile. Da questa parte è un po' difficile. D'accordo, non c'è problema per quello, non ti preoccupare. Ciao Tony. Non c'è problema, Antonio, si scherza, tanto queste prove, se non si fanno così giocando. Il brutto è quando iniziano ad essere pesanti, nel senso che magari danno fastidio, le fanno apposta, allora bisogna accendere qualche tassino in più. Io lo so anch'io, perché non ti preoccupare. Comunque, a te lei, sono convinto, se Antonio Risello ci mette un'antenna sul tetto, come si vede, una 5 ottavi, e ci mette qualche metro di palo, ti schiaccia di brutto. Meno male, era ora. No, io ho finito di mettere robe sul tetto. Perché? Perché ho messo l'antenna giusto per farmi sentire. E poi niente, no, non mi interessa, io mica mi offendo, insomma. Cioè, non è che mi devo fare. Cioè, chi mi ascolta e chi non mi ascolta, pazienza. E dai, Antonio, non fare così, dai. No, non le metto 5 ottavi in andare a capitura io, perché no. Oh! Ma neanche per sogno. Aiuta. Fai un coso, là. Metti una bella antenna. Media più che altro, là. No, lascio questa. Porto su, lineare da campagna. Già tocco il capo io, già me ne accorgo quando sono arrivato al limite. Vabbè, non lo so, fai come fai tu. A un certo punto. Fai come ti piace. Boh, tutti con linee attaccati, ma come mai, boh? Mimì? Perché non usate questi lineari? Mimì? Mannaia. Franco! Una volta le cambie finali al 140, che esco 50 watt, da 3 passo subito a 7, non è che... Boh, guarda un po', Franco, ma mi dura qua questo? Troppo basso, a volte non lo capisco perché mi arriva il corrente più alto. Ah, è giusto così una prova. C'è differenza da uno all'altro, vero Fra? Guarda questo qua e poi ti attacco l'altro. Quasi 20. E qua invece? Aspetta, Già lo fa, sia Franco a Franco. Aspetta. Eccolo qua, era fuori, perché quando conto devo accordare. Com'è qua? Quasi 10 proprio, spaccato. Allora li conosce quegli affari. No, aspetta, dove ha giusto fatto uno Antonio? Guarda se cambia qualcosa, aspetta, Guarda un po'. Sì, è andato a 9.15. Però cambia la radio, vero? Sì, rimane più complesso. Dai, così, deve andare così lui. Però aspetta, come cacchio, non lo ricordo più, aspetta un attimo. Ora, e così invece ha cambiato la radio? No, non ha cambiato niente adesso. E il segnale com'è? Guarda un po'. Sì, 9.15, leggermente abbondante, là. No. Perché sto alzando il basso della radio, E così, ora, Poi Antonio mi dice anche tu se ha cambiato qualche cosa. Adesso sta andando quasi a saturare. Troppa entrata c'è allora. Ora, così deve stare. Se non so, però dovrebbe andare bene. Sì, così va bene. Sì, sta andando in compressione. Diciamo che sto dando 4-5 watt neanche, anzi forse anche meno della radio, con quello che mi hai sistemato tu anche tu. Sì, vabbè, io non ti posso dare un rapporto di segnale perché comunque c'è uno splitter che non vale a nulla, però si vede, la differenza si sente. Adesso ho messo l'altro, dai. Ma questa era molto meno, questa magari più forte della radio, più chiara, più... è un altro pianeta, però meno fatta. Sì, è più squillante, la radio è più chiara, molto chiara. E diciamo che sono sceso fuori il lato, però va benissimo, va migliore, se a me mi piace più questa. Oh, l'altra non era male, senza che non è andata a saturazione, era buona lo stesso, era. Ok, però vi saluto, dai, sono entrato perché vi ho sentito, almeno a salutarvi, e niente, vi stanno chiamando a cena, e ci ascoltiamo tra le tue scenine. Ciao Tino, ciao Antonio. Ciao Antonello, ci sentiamo nel prossimino, riprenditino e fai girare, faccio correti. Sì, va bene, vai, ti saluto Franco, io stavo per chiudere poi, e sono trattenuto 5 minuti. perché un po' di cose con te, perché non posso senza sentire. Niente, rilancio il mic e andrò in riserva, aspetto anche i saluti e me ne vado, vai. Eia, ciao Fra, buon proseguimento di serata, alle prossime. Vai Antone. Ciao Fra, ci sentiamo alle prossime, dammi bene. Molto e buon tutto, non c'è problema. Ciao a tutti, buonanotte. Ok, ciao, buonanotte. Eia, ciao Fra, ciao Antonio, scusami, mi stavo dimenticando di te. Ciao Antonio Riserva, ciao Antonio Bombolo, che dovrebbe essere ancora in ascolto, e niente, dai, anch'io QRT esecutivo da parte mia, che vado a vedere se la ragazza e le anguille sono pronte. Eia, dai, anch'io sto credendo che sono a masca appena mi devo immergere. Ciao a tutti, un bacione, vi abbraccio tutti. Belli, brutti, vedete per il culo tutti. Ciao! Altrettanto, grazie. E se non ci piace, continuiamo così. E se vi piace vuol dire che non siete cattivi ma siete viziosi. Bravo, ci sentiamo, tanto, ciao. Se vuoi passare a bere una birra domani mattina, io sono lì. Ciao a tutti, dai! Ce la risentiamo domani, dai, alle prossime. Ciao. Ciao. Ma tu, devo andare da Walter a finire un lavoro che ho in corso e quindi devo catturare a Lucca. Niente, quindi credo che però domenica, lunedì e martedì sono a casa, quindi no. Lunedì sono a casa, martedì no. No, lunedì non lo so perché ormai ci scendo solo 3 settimane, non sai che con i giorni di Michela. Però se domenica ci sono fammi un. Ci vediamo. Fammelo sapere. Ti aggiorno perché non so neanche a che punto è rimasto mio padre qua con l'Ulir. Sicuramente io ho iniziato domenica scorsa, sicuramente ci sarà da terminare. Comunque dai, ci sentiamo. Va bene, ciao. Ciao, vi abbraccio a tutti. Ciao. Alla prossima.